È più preoccupante delle precedenti, forse, perché mette insieme una serie di questioni e dà il meglio di sé, se così si può dire, proprio intorno al tema del dissenso, del contrasto del dissenso, della repressione, tra l'altro trasponendo tutta una serie di misure sul piano amministrativo. Quindi nella proposta di legge al momento si tratta di bozze che appunto contengono questi 65 articoli incanalati in un decreto legge e in un disegno di legge, che probabilmente seguiranno due strade diverse, ma bisognerà vedere. E quindi in queste carte si legge depenalizzazione di una serie di reati, che in genere è una parola positiva. Qui invece il risultato concreto è cancellare le garanzie che il diritto penale offre e portare tutto sul piano della sanzione amministrativa, contro cui ci sono armi molto più spuntate, e quindi una manifestazione autorizzata invece che processo, che poi anche la prescrizione, ha la possibilità di difendersi e in cui comunque un giudice terzo deve accertare la verità, diventa una multa per diverse migliaia di euro. E diverse migliaia di euro si dovranno pagare anche se si devia un corteo, oltre il percorso autorizzato, se l'ordine di scioglimento da parte delle forze di polizia non viene rispettato. Per non parlare di un altro istituto assurdo e dal sapore molto, diciamo, autoritario, fermo di prevenzione, cioè le forze di polizia potranno, in occasione dei cortei, bloccare per 12 ore, fino a 12 ore, chiunque ritengano potenzialmente pericoloso. Insomma, questo è un assaggio, ma c'è anche molto altro. Quest'ultima misura ricorda un po' quando, in occasione delle visite di Benito Mussolini, nelle città venivano rastrellati gli antifascisti messi in galera per una notte, insomma. Sì, infatti ho detto autoritario, ma avrei potuto dire fascista. Il sapore è proprio quello, e di nuovo vediamo un arbitrio sempre più grande concesso alle autorità di polizia, un tentativo di scavalcare, diciamo, la possibilità di far valere i propri diritti magari davanti a un giudice, cosa che a volte avviene, a volte no, però è comunque un elemento, diciamo, di autodifesa, e questo lo vediamo poi anche in altri aspetti, per esempio sul terreno delle migrazioni, dove viene stabilito un obbligo che sarà poi tutto da capire e da chiarire. Per le persone recluse nei CPR di collaborare alla propria identificazione, oppure viene stabilito un perimetro per i giudici sulle possibilità di non convalidare il trattenimento, quindi diciamo un tentativo di riaprire la questione Albania e in generale di lanciare un messaggio rispetto al fatto che i migranti devono stare dietro le sbarre quanto più possibile. Un altro divieto preoccupante che ci fa guardare indietro al passato, sebbene quello più recente, è la possibilità di interdire l'ingresso nelle acque territoriali a navi che potrebbero costituire un pericolo. E qui torniamo ai decreti sicurezza salviniani, alla strategia dei porti chiusi, ed è interessante che questo pericolo è completamente generico, ma può essere anche una fase di immigrazione particolarmente elevata, di una pressione migratoria particolarmente elevata, quindi nessuna definizione, cosa che ovviamente lascia spazio a maggior arbitrio da parte dell'esecutivo. Certo, tante misure diverse su diversi campi che però sono accomunati appunto da questa svolta repressiva. L'ultima domanda che ti faccio è: secondo te perché appunto, visto che c'è già stato con questo governo un decreto sicurezza, perché il governo torna a intervenire? Credo che ci sia una partita anche interna alla maggioranza. In questi giorni di inizio anno la Lega ha sbandierato proprio i temi su cui poi si sarebbe concentrato almeno una parte l'intervento normativo, la sua proposta, perché ha bisogno di emergere, insomma, da un momento anche difficoltà. Questo da un lato, ma dall'altro il governo con questa strategia politica che sta mettendo in campo da quando si è insediato ha bisogno continuamente di costruire nuovi nemici, utilizza qualsiasi fatto di cronaca per diffondere paura, quindi proporre soluzioni ancora più autoritarie, e soprattutto sappiamo bene che in Italia c'è sempre questa tendenza a anticipare le possibilità di movimento, a chiuderle in anticipo. Abbiamo visto quanto è successo di straordinario nelle piazze di settembre, ottobre, negli scioperi generali per la Palestina. Quella cosa forse ha fatto spaventare qualcuno, e i venti di guerra che soffiano potrebbero essere anche un'indicazione per il governo che conviene, dal suo punto di vista, ovviamente non dal nostro, chiudere gli spazi di democrazia prima che possano generare nuove forme di conflitto che poi tolgano consenso e potere a chi governa.